Orecchie ai libri, un podcast originale per ascoltare la voce degli autori, i suoni della storia, il timbro della società delle pubblicazioni di edizioni Pagina 1. Ben ritrovati a coloro che hanno ascoltato la prima puntata dedicata a Francis Scott Fitzgerald e al suo Basil Lee. Sono felice di tornare a immergermi nelle pagine dei racconti Basil Lee e Ci risiamo Basil Lee, due volumi editi a distanza di circa un anno della collana Il Bosco di Latte. Siamo negli Stati Uniti, tra i Grandi Laghi e New York. Ci vengono dipinti ambienti molto umanizzati, di benessere, o comunque dove il benessere è obiettivo. È il biglietto da visita. Basil Lee lo abbiamo conosciuto in crescita nella prima puntata. Vorrei ora raccontarvi, grazie alla prosa colorata, densa, lirica, a volte cupa e tormentata, di come l'eroe si barcamena tra donne, audaci imprese creative e diktat della comunità che abita. Non manca una visione critica verso il pregiudizio, la cieca passione per i beni effimeri. Dice bene Sabrina Campolongo nella postfazione al volume Basil Lee, il primo, quello del 2018. La vacuità, il conformismo, la brutale noncuranza della buona società americana e la sua critica sono già tratteggiate con mano leggera e ferma. L'autore ci regala parole che suscitano emozioni immediate e vere, perché si dipingono esprimendosi, aprendosi a chi sa ascoltarle e coglierle. L'amore, sentimento che ha impegnato grandissimi autori in tutte le epoche storiche, che non ha mai un solo carattere, che è contraddittorio e mai lo si può ingabbiare in una cornice di definizioni o aggettivi. La scoperta di qualcos'altro che senti come ti appartenesse ma che sta fuori, che riflette ciò che provi nell'incontrarlo, che non si riesce mai a vedere per intero perché vorrebbe dire essere capaci di guardare al contempo se stessi, da dentro e da fuori. Vediamo i primi amori di Basil Lee. Per la prima volta nella sua vita percepì in modo pieno una ragazza come qualcosa di opposto e complementare rispetto a se stesso e provò un brivido caldo misto di piacere e dolore. Era un'esperienza significativa e ne fu consapevole all'istante. All'improvviso il pomeriggio estivo si perse in lei. L'aria lieve, le siepi ombrose, le file di fiori, la luce aranciata del sole, le risate e le voci, il suono argentino di un pianoforte lungo la via. La fragranza lasciò tutte queste cose e si posò sul volto di Imogen, mentre lei, seduta lì, lo guardava con un sorriso. Le ragazze, l'amore più in generale, sono viste da Basil come le vie di accesso a quella vita vera che per ora deve rimandare a un tempo a venire, branato e immaginato, a un altrove, simboleggiato da New York, dalle sue luci e dalla sua musica, una città così pulsante e piena di promesse. Ma l'amore rappresenta anche un luogo confortevole per Basil, in cui sospendere la lotta. Sì, perché Basil conserva candore nella sua focosità. Margaret Torrance aveva 14 anni, una ragazza seria, considerata bella per via di una specie di tradizione, dal momento che era stata bella da piccola. Un anno e mezzo prima, dopo una lotta estenuante, Basil era riuscito a baciarla sulla fronte. La gioia di rivedersi fu grandissima. Per un istante l'uno rappresentò per l'altra la casa, i cieli blu del passato, i pomeriggi estivi del futuro. Su un'altra ragazza bastava la sua presenza perché agli occhi di Basil qualunque luogo diventasse meraviglioso e incantato. Ma lui non se ne rendeva conto. Pensava che l'incanto fosse intrinseco nel luogo e per molto tempo ancora una strada ordinaria o il mero nome di una città avrebbero seguitato a emanare uno splendore particolare, un suono prolungato che ridestava la sua anima colmandola di gioia. In presenza di lei era troppo assorto per notare ciò che lo circondava, così che la sua assenza non rendeva mai vuoto l'ambiente, ma piuttosto lo spingeva a cercarla per stanze infestate di fantasmi e giardini che non aveva mai davvero visto prima. Anche nel racconto fuori serie, intitolato Quel genere di festa, protagonista Terrence R. Tipton, altro modo di chiamarsi per Fitzgerald, tradotto da Cristina Fontana, guardare un volto è genesi di poesia. Alla vista di Dolly Bartlett, il cuore di Terrence si fermò. Voleva fuggire, non era la persona che conosceva, di certo non la ragazza che aveva abbracciato una settimana prima. La fissò come uno spettro. Non si era mai reso conto del suo aspetto, percependola quasi come un'essenza di tempo e clima. Se nell'aria c'era gelo ed euforia, lei era gelo ed euforia. Se c'era un mistero dietro le finestre illuminate in una sera d'estate, lei era il mistero. Se c'era musica che potesse ispirare o rattristare o eccitare, lei era quella musica. Chi non vorrebbe dunque farsi tratteggiare da Fitzgerald? Come sa questo autore guardare i volti? Leggiamo come dipinge con la scrittura un altro viso. Era il viso quello che incuriosiva. Le lunghe ciglia si abbassavano dolcemente sulle guance diafane, quasi a sfiorarle, come per nascondere l'infinita noia nei suoi occhi, ma quando sorrideva la sua espressione era illuminata da un'ardente e amabile cordialità, come se stesse dicendo: "Vai avanti, ti ascolto, sono affascinata. Oh, erano anni che aspettavo questo momento con te." Poi si ricordava di essere timida o annoiata. Quel sorriso svaniva e gli occhi grigi si chiudevano di nuovo per metà. Ancora prima di iniziare, il momento era già finito, lasciandosi dietro una curiosità ossessiva e inappagata. Impossibile non leggere queste righe come un déjà vu, qualcosa che abbiamo vissuto. Ogni momento in cui Fitzgerald descrive i moti dell'animo, sentiamo di abitare quella situazione, di muoverci e respirare il presente che viene rappresentato. La freschezza di Fitzgerald, di cui questi bellissimi racconti sono impregnati, sta proprio nel saper mettere a contrappunto emozioni e caratteri opposti o tangenziali. Basil non manca di vanità e superbia e saccenza, l'abbiamo visto nella prima puntata. L'intelligenza però è autentica, gli serve per renderlo acuto osservatore di relazioni. Nella sua gita a New York, con l'insulso e sciocco insegnante di ginnastica, vi ricordate, Mr. Rooney, si fa prendere da un dialogo tra Ted Fay, amatissimo suo giocatore di baseball, e la compagna attrice. Una radiosa piccola bellezza di 19 anni, che parla con voce bassa ed esitante, meno sicura di quanto fosse stata nella commedia e molto triste. Adesso vi leggerò come Basil, l'acuto osservatore, si immerge poi nelle riflessioni che gli suscitano l'ascolto del dialogo. È un racconto in cui si ride molto, l'abbiamo visto nella prima puntata, ma traspare anche tanta struggente malinconia e amarezza. Perché no? Se me ne vado è per via delle mie responsabilità nei confronti di Belson. Te ne devi fare una ragione, così come ho fatto io. Non possiamo appartenerci. Jerry, pensa a cosa stai facendo. Per tutta la mia vita, ogni volta che sentirò quel valzer. Basil saltò in piedi e si affrettò lungo il corridoio, attraverso l'atrio e fuori dall'hotel. Era in uno stato di folle confusione emotiva. Non capiva tutto quello che aveva sentito. Ma dal suo sguardo clandestino sull'intimità di quei due, con tutto il mondo che la sua breve esperienza poteva immaginare ai loro piedi, aveva compreso che la vita era per tutti quanti una battaglia, a volte maestosa, vista da lontano, ma sempre dura e sorprendentemente semplice. E un po' triste. Sarebbero andati avanti. Ted Fay sarebbe ritornato a Yale. Avrebbe chiuso la fotografia di lei nel cassetto e quella primavera avrebbe battuto degli home run a basi piene. E alle 8:30 il sipario si sarebbe alzato per lei, che avrebbe avvertito una mancanza, qualcosa di caldo e giovane che aveva lasciato la sua vita, qualcosa che le era appartenuto quel pomeriggio. L'attrice, peraltro, ha promesso di sposare un uomo che le ha affidato una parte, cito, a prova di bomba e che avrebbe fatto la fortuna di qualunque ragazza. Sentite come Fitzgerald non risparmia al mondo dello spettacolo le critiche, puntando il dito sulla facilità al compromesso, seppur dovrebbe essere l'ambiente promotore di grandi ideali che esistono nelle grandi opere che vengono rappresentate. E la seconda raccolta di racconti, Ci risiamo Basil Lee, si apre con il giovane Basil in veste proprio di regista teatrale, oltre che sceneggiatore. Titolo: L'ombra catturata, tradotto da Rossella Venturi. L'ombra catturata è anche il titolo della farsa melodrammatica in tre atti di Basil Duke Lee. Basil sa essere un autore ambizioso, sfodera l'arma del migliore equivoco shakespeariano per ottenere lo scopo. Leggetelo, perché non si può svelare quanto Basil riuscirà ad essere macchinoso. Cosa non fa Basil per la sua spinta creativa, per il suo posto nel mondo della gloria? Di Basil non ci si stufa perché ci rende partecipi della passione da cui è capace di farsi attraversare. Era rimasto sveglio tutta la notte. In corridoio si ricordò che chi resta sveglio tutta la notte impazzisce e una volta nell'atrio, come pietrificato, cercò disperatamente di indagare dentro di sé, di rendersi conto se stava diventando pazzo oppure no. Attorno a lui tutto sembrava straordinariamente irreale e tornando precipitosamente in camera sua, incominciò a strapparsi gli abiti di dosso, inseguendo la notte che si dileguava. Svestito, lanciò un ultimo sguardo di rammarico alla pila del suo manoscritto. Aveva in mente tutta la scena successiva. Facendo un patto con l'incipiente follia, si infilò nel letto e scrisse per un'ora ancora. Fuochi e fiamme nell'animo del giovane autore. Basil, abbiamo visto nella prima puntata, ce l'ha fatta, ha avuto successo, ma basta soddisfarlo? Quando la folla lentamente si dileguò e i pochi rimasti lo salutarono e poi uscirono, sentì un grande vuoto sopraggiungergli nel cuore. Era finita, era fatta, tutto quel lavoro, quell'impegno, quella concentrazione. Era un senso di vuoto che assomigliava alla paura. Volete magari anche dare uno schiaffo agli eroi e alle eroine, a tutti quelli che impersonano i vostri ideali, a tutto ciò che sembra riuscito? Ebbene, preparatevi a grasse risate leggendo La vita perfetta, tradotto da Chiara Naro. Ma quale perfezione? Abbandonatela alla perfezione, relativa, ci dice Fitzgerald. La si riconosce quando si concilia al desiderio, fosse anche solo uno spuntino trafugato nella notte. Assieme a Basil possiamo anche capire cosa succede nella sua epoca. Adesso che Basil ha 16 anni è più facile avere una percezione della società. E anche in questo c'è la genialità dell'autore nel saper costruire un'opera che, sebbene non sia stata concepita come un romanzo, funziona come unità e nelle sue singole parti, cioè nei singoli racconti che dialogano nel tempo, percorrendo la loro attualità. Sentite ad esempio cos'era il danzare, alle feste che fioccano nella stagione estiva, che sono occasioni di socializzare, di fare in qualche modo politica tra adolescenti, tra questi adulti che gattonano. A quei tempi non era un semplice accompagnamento al bere o all'amoreggiare o al fare l'alba, era il fine stesso. Sedentari agenti di borsa, nonne sessantenni, veterani della Confederazione, onorevoli politici e scienziati, gente colpita da atassia motoria, non solo volevano ballare, ma volevano ballare divinamente. Fantastiche ambizioni sbocciavano in petti fino a quel momento sobri. Un violento esibizionismo germogliava in famiglie modeste da generazioni. Nullità dalle lunghe gambe diventavano famose in una notte e ottenevano appuntamenti per il mattino seguente, nel caso in cui avessero voluto riprendere le danze. In virtù di un preciso planare oppure di un goffo inciampare si decidevano le carriere future e si stringevano o scioglievano fidanzamenti, mentre l'alto uomo inglese e la ragazza con il cappello olandese la facevano da padroni. Sottilmente critico, l'autore, su come relazioni effimere vadano invece a impattare fortemente sul ruolo che ogni individuo può o deve rivestire nel suo piccolo mondo. Basil Lee lo abbiamo già conosciuto tra i banchi delle scuole, con successo a dir poco altalenante in quanto a popolarità. Ma anche nel cambio d'abito, ricordate? Pantaloni corti, pantaloni lunghi, rimane fedele al suo proposito. Yale, la conquista dell'Est. Yale rappresentava l'Est più remoto, che aveva amato con immensa nostalgia sin dalle prime letture sulle grandi città. Oltre la tetra stazione di Chicago e le fiamme notturne di Pittsburgh, là, negli antichi stati, accadeva qualcosa di elettrizzante che gli faceva battere più forte il cuore. Si sentiva perfettamente a suo agio nell'immenso ed esaltante fermento di New York nei giorni e nelle notti metropolitane tesi come cavi dell'alta tensione. Ma prima di tutto, a guisa di un cancello che dava accesso a quella vita più ricca e profonda, c'era Yale. Il nome evocava la memoria di una squadra eroica, schierata con le spalle alla sua inviolabile porta nel fresco crepuscolo di novembre, e più avanti di una mezza dozzina di impeccabili gentiluomini con cilindro e bastone riuniti al bar dell'Hotel Manhattan. E intrecciata ai suoi trionfi e ai suoi riconoscimenti, alle battaglie e agli onori, c'era la visione di una ragazza, fatale, ineguagliabile. Il titolo di questo racconto in cui Basil si aggrappa a questo sogno è evocativo, Farsi strada, tradotto da Silvia Allone. Forse essere adulti significa anche procacciarsi i mezzi per sognare e appagare i desideri. Si entra dunque nella logica di scambio più trasversale che conosciamo, almeno nel mondo occidentale, quella del lavoro. Anch'esso dato da molteplici facce, spigoli e zone d'ombra. È davvero l'unico possibile ingrediente indispensabile all'emancipazione dell'individuo? Sicuramente in quegli anni, negli Stati Uniti, la spinta verso il mondo del lavoro come risorsa per guadagnare e accumulare capitali è massima e decisa. È una strada politica che ha preso la società americana, che ha esportato per accumulare propensione verso la crescita capitalistica. Tra lucidi ribalti e svaghi, cova l'ammonizione a produrre e arricchirsi per la scalata sociale. E Basil ne ha influenzato. Di sopra nella sua stanza, Basil sostò solo per tuonare, cupo allo specchio che avrebbe lavorato per pagarsi Yale. Poi dalla libreria ha preso una mezza dozzina di volumi impolverati di Horatio Alger che nessuno apriva da anni. Quindi, proprio come un giovane reduce di guerra consulterebbe il corso sintetico di imprenditoria di George Washington, sedette alla scrivania, iniziò a sfogliare, destinato al successo. Dietro la posizione sociale da conquistare ci sono però ricatti e compromessi. Anche Basil vi si deve piegare. Era certamente grato alla signora Rayleigh per la sua gentilezza, ma non poteva smettere di domandarsi se un ragazzo più furbo avrebbe saputo sottrarsi dall'accompagnare Rhoda al Lake Club quel sabato. La proposta l'aveva accolto di sorpresa. Ma quando fu incastrato anche la settimana seguente e quella dopo ancora, comprese la situazione. Quel compito faceva parte del suo lavoro e lo accettò con rassegnazione, pur restandogli del tutto incomprensibile come una persona così scontrosa e incapace nel ballo potesse avere tanta voglia di andare in un luogo dove era ovviamente un fardello. E quindi scelte drammatiche per il nostro Basil. Basil non abbandona mai però il suo pieno e vivido romanticismo che conquista il lettore. Ci aveva riflettuto bene. Il sabato pomeriggio era ancora atteso a entrambe le feste ed era lontano dal trovare una soluzione. Deve decidere tra due ragazze, deve decidere tra due feste, lavoro, amore. Mancava solo un mese a Yale, ma da lì a 4 giorni Erminie Bibble sarebbe partita. Senza un legame, senza una garanzia, gravemente offesa. L'avrebbe persa per sempre. Non ancora fuori dall'adolescenza, i momenti di lungimiranza di Basil si alternavano a quelli in cui il futuro si misurava solo dalla sera alla mattina. La gloria di Yale sbiadiva se accostata alla promessa di quell'ora senza eguali. Chiude la serie dei racconti ufficialmente interpretati da Basil Lee, Basil e Cleopatra, tradotto da Benedetta Villa. È ancora più cresciuto il nostro Basil, ormai ha 17 anni. Ha un che di misterioso, teatrale. Sollevando lo sguardo, lei lo giudicò spassionatamente, come mai aveva fatto prima d'allora. La figura robusta e aggraziata, il tono caldo e acceso della carnagione abbronzata, i capelli neri e lucenti che un tempo aveva trovato così romantici. Anche a lei parve, come pareva persino a quelli a cui lui non piaceva, che ci fosse qualcos'altro nel suo volto, un marchio, un segno del destino, una tenacia che era più della volontà, che era piuttosto una necessità di imprimere il proprio disegno sul mondo, di farsi strada. Quando si volta all'ultima pagina dei racconti di Basil Lee, una cosa è sicura: tanto abbiamo goduto che la nostalgia è istantaneo. Un caro saluto da Elisabetta Groppo per Edizioni Pagina 1.